Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con le riviste italiane e straniere, consigli per la lettura. Allora, visto che si avvicina il Natale, volevo consigliarvi un menù particolare. Se vi va di fare un tuffo nel passato, potreste prendere Storica e scoprire che i piatti tradizionali per le festività nell'Inghilterra del Medioevo erano il cinghiale e il pavone. La preparazione non sembra neanche complicatissima, se non naturalmente per alcuni addobbi che accompagnavano appunto la messa in tavola. Leggo dal lavoro che viene presentato da Margherita Giusti appunto su Storica del mese di dicembre. Nell'Inghilterra del Medioevo sulle tavole dei ricchi si banchettava più non posso, anche se la Chiesa prescriveva il digiuno, tutt'al più un'alimentazione sobria durante l'Avvento e fino alla vigilia di Natale. Per la cena natalizia il feudatario riuniva gli amici, annunciato da una fanfara di trombettieri, dalla musica dei menestrelli. Il capocuoco portava su un vassoio d'oro o d'argento, perché non erano consentiti metalli più vili, una testa di cinghiale, e questo piatto per secoli ha rappresentato il piatto forte. C'era anche un ritornello in latino che veniva proprio intonato dai cavalieri, dai nobili, dalle dame che partecipavano al banchetto, che diceva appunto in latino: porto una testa di cinghiale offrendo lodi al Signore. Il cinghiale doveva poi essere guarnito con foglie d'alloro, doveva avere una mela infilzata in ogni zanna. Dopo il cinghiale, in ordine di importanza in questa cena di Natale, se volete appunto anche riportarla d'attualità, dopo il cinghiale veniva il pavone, pavone vivente. Perché vivente? Perché lo si preparava togliendogli il piumaggio in modo da lasciarlo intatto, poi lo si cucinava, lo si imbottiva con uova, erbe, spezie e così via. Dopo la cottura la pelle con il piumaggio veniva ricucita sull'animale, talvolta veniva anche coperta con lamine d'oro, anche il becco veniva dorato e il pavone veniva offerto alla dama più importante. Tra l'altro, per tagliare il pavone era un privilegio che veniva assegnato al cavaliere che si era dimostrato più abile nei trofei. Via via poi Margherita Giusti ci informa che talvolta il pavone veniva servito come ripieno di una torta salata. Questa torta salata però venivano comunque fatte spuntare la testa e la coda a ruota del pavone. E c'è una tradizione curiosa che vuole che i cavalieri erranti giurassero appunto sulla torta di pavone, giurassero di essere disposti ad affrontare qualsiasi impresa. Questo giuramento si chiama appunto del pavone e della torta, ed è un giuramento che si era diffuso nel linguaggio comune, l'ha utilizzato anche Shakespeare nell'Enrico IV. In italiano, spiega la Giusti, si traduce un po' come si riesce, perché da noi non usa appunto giurare sui pavoni o sulle code dei pavoni, ma questo era appunto il banchetto medievale natalizio, i piatti forti del banchetto medievale natalizio. Poi c'erano altre portate magari meno appariscenti ma più sostanziose, come le oche, i capponi, i fagiani, le carpe e poi anche una specie di torta di grano che si chiamava furmante, a base di grano, che veniva lasciato a bagno, poi miscelato con brodo, latte di mandorla, tuorli d'uovo e così via. Veniva servito come accompagnamento alla carne di cervo. Tutto questo su Storica di questo mese, cinghiale e pavoni per la cena di Natale. Non so se il menù magari a quest'ora del mattino vi fosse risultato un pochino così indigesto. Davvero cominciare la giornata parlando di cinghiali potrebbe essere un po' coraggioso. Allora potremmo invece ripiegare su un bel soffio di cioccolato. L'ho preso da Wired. Wired ci informa che stanno per commercializzare, succederà l'anno prossimo, quindi è abbastanza vicina la data di debutto, dei tubetti che consentono di inalare, di sniffare, di fatto di aspirare delle piccolissime quantità di cioccolato o di caffè. Ma qual è il trucco, qual è il bello di questa invenzione? Che questi piccoli sigari, sembrano appunto come si vedono nel disegno che trovate su Wired, contengono una quantità piccolissima di cioccolato. Ad esempio, quando uno inspira, le microparticelle di cioccolato ricoprono le papille gustative, quindi sentiamo sentiamo il sapore, però restano nella bocca e non raggiungono lo stomaco, quindi ci si gode tutto il sapore del cioccolato ma non si ingerisce neanche una caloria, e questo dovrebbe essere appunto la grande svolta di questa invenzione. L'invenzione si deve a Tom Hadfield, un signore che ha 28 anni, un giovane di 28 anni, dirige appunto una società che si chiama Breathable Foods, cibi respirabili, e la sua invenzione si chiama Le Whiff, un tubetto che consente di inalare gli alimenti invece di ingerirli. Sarà testato e lanciato Le Whiff in Italia l'anno prossimo con diversi gusti, perché oltre al cioccolato di cui vi ho detto appunto tra i cibi da inalare, si pensa anche di lanciare questi prodotti con il caffè o con altre sostanze, con altri cibi che magari non si vuole consumare, cioè aggiungendo calorie alla nostra dieta, ma che si avrebbe piacere in qualche modo di assaporare. Questa è la invenzione che ci viene presentata su Wire. E allora, non ci sono però solo belle notizie, potrebbero non esserci solo belle notizie nel nostro futuro. Ad esempio, da Newsweek di questa settimana una domanda un po' inquietante: sta finendo l'epoca degli antibiotici? In realtà tutti abbiamo visto anche dei richiami da parte di pubblicità, anche dei nostri enti governativi, dei nostri ministeri, che ci invitano a non sprecare, a non fare un cattivo ed eccessivo ricorso agli antibiotici. Su Newsweek Jeanin Interlandi ci informa che sono sempre di più i batteri che sono resistenti agli antibiotici anche più potenti, e quindi forse sta tramontando l'era dell'antibiotico, anche perché, come poi lei spiega nel corso del suo lungo articolo che trovate su Newsweek, non è così semplice riuscire a focalizzare un antibiotico molto mirato che magari colpisce solo una piccola quantità di batteri, quindi si creano poi delle difficoltà nel testare la affidabilità di questo nuovo prodotto e anche nell'essere sicuri di avere poi un mercato che, per quanto brutto possa sembrare quando si parla di salute, è una considerazione che fatalmente rientra appunto nella produzione dei farmaci. Partiamo dall'inizio del suo articolo, dove lei spiega che ormai è molto difficile che ci sia qualche medico ancora in attività che si ricordi la vita prima degli antibiotici, e che sostanzialmente gli antibiotici hanno segnato per 60 e più anni, da che la penicillina è entrata sul mercato, una sorta di grande vittoria, di grande vittoria sui batteri da parte nostra. Una vittoria che però potrebbe essere davvero solo effimera, molto molto ridotta. Perché? Perché, spiega appunto Jeanin Interlandi, si tratta di un animale multicellulare con una complessità stupefacente, molto delicato, cioè noi, che combatte con degli organismi invece monocellulari, molto primitivi, e con una capacità incredibile di adattarsi e di moltiplicarsi proprio dentro di noi che li ospitiamo. E questo è il motivo per cui hanno saputo anche elaborare delle strategie di difesa dagli antibiotici, o meglio sviluppare poi a loro volta delle varianti che sono resistenti, che si stanno dimostrando sempre più resistenti agli antibiotici, anche un po' per colpa nostra, perché, come spiega poi nel suo articolo, c'è spesso l'abitudine di interrompere la somministrazione di antibiotici non appena uno si sente meglio. Questo sarebbe più diffuso anche nelle classi meno istruite, soprattutto. Dice: non è così difficile, scrive proprio Newsweek, che i pazienti si stufino, piantino lì di prendere gli antibiotici non appena si sentono meglio, ma in questo modo lasciano una popolazione di batteri che diventano resistenti, lasciano questa popolazione all'interno del loro organismo, e questa popolazione è libera anche di moltiplicarsi. Poi ci sono naturalmente le difficoltà nel mettere a fuoco quindi dei prodotti che siano sempre più capaci di combattere i batteri, anche quelli che si rivelano così particolarmente resistenti agli antibiotici. E poi c'è l'uso o l'abuso, meglio, degli antibiotici, perché secondo appunto alcuni dati governativi statunitensi più o meno la metà degli antibiotici che si usano non è necessario. Spesso vengono prescritti per sicurezza, per eccesso di cautela, ma si potrebbe tranquillamente farle a meno e quindi magari prolungare un po' di più la nostra vittoria sui batteri. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, abbiamo curiosato un po' tra passato e futuro, quindi dalla cena di Natale dai sapori medievali ricavata dalle corti inglesi per arrivare al destino degli antibiotici. Magari un saltino nel presente per ricordarvi che oggi 12 di dicembre, entro il 16 c'è da pagare l'ICI, la seconda rata, naturalmente non più sulla prima casa, come sapete non si paga più, ma si paga per quanto riguarda le imprese, si paga per le case che non sono la prima casa di abitazione. Se volete saperne di più, vi ricordo che con il Sole 24 Ore trovate in vendita le scadenze di fine anno, tutti gli adempimenti, gli obblighi contabili e fiscali che riguardano appunto questa seconda metà del mese di dicembre, è in vendita con il Sole 24 Ore proprio in questi giorni. E allora torniamo invece indietro, perché riprendendo Storica c'è un articolo affascinante, oserei dire, sugli esami per diventare mandarino in Cina. Allora, chi erano i mandarini? I mandarini erano i funzionari di rango più elevato in Cina, questo naturalmente prima della rivoluzione. Questi mandarini erano selezionati con un sistema rigidissimo e assolutamente spietato. Lo racconta appunto su Storica di questo mese Fernando Garcés, che è uno storico e scrittore, il quale ricostruisce un po' delle caratteristiche di questa difficile conquista del titolo di mandarino. L'aspetto, dice Garcés, che destava più stupore e suscitava più ammirazione era proprio il criterio di selezione. In contrasto con l'usanza europea, secondo la quale le cariche pubbliche spesso dipendevano dal capriccio del monarca, si potevano magari acquistare o si trasmettevano di padre in figlio, in sistema cinese era invece basato sul fatto che tutti potevano partecipare ad armi pari e solo i più capaci sarebbero stati scelti. Questo naturalmente già faceva scalpore nel XV-XVI secolo, ma il sistema era molto antico, risaliva addirittura al VII secolo d.C. e aveva raggiunto il suo pieno sviluppo tra il 1300 e il 1600. Poi, anche durante la dinastia Qing, che è quella che va dal 1644 al 1911, fu ulteriormente sviluppato. Per diventare funzionari pubblici si cominciava ad andare a scuola a 4 anni per imparare la scrittura cinese, che, come potete immaginare, non è esattamente facile. La conoscenza però era fondamentale per avere un posto amministrativo. A scuola potevano andare anche le bambine, anche se non potevano poi ricoprire una carica pubblica. A 8 anni gli allievi dovevano già recitare brani scelti della letteratura cinese, dovevano imparare a memoria più o meno 430.000 caratteri già a quell'età. E poi c'erano le prove delle selezioni che avvenivano su base territoriale, quindi si cominciava da un distretto, poi una provincia e via via si arrivava al livello nazionale per conquistare appunto il rango, il grado più elevato. C'erano domande diversificate in base all'età degli allievi: se l'allievo aveva meno di 15 anni le domande erano più semplici, gli studenti più anziani avevano invece prove più complesse. Questo, ricorda sempre Storica, faceva sì che anche signori fatti di 40 anni si presentassero agli esami dichiarando di averne 14 pur di poter avere delle domande un pochino più semplici. L'esame poi aveva ad esempio l'esame di tipo provinciale, che era solo una prima tappa peraltro della conquista di un posto nell'amministrazione pubblica cinese. La prima tappa era l'esame provinciale, che si svolgeva ogni 3 anni. Ogni allievo doveva sistemarsi in una cella singola che aveva solo 3 panche: una faceva da sedile, una faceva da scrivania e l'altra faceva da scaffale per i libri. In 3 giorni dovevano, 3 giorni e 2 notti, dovevano preparare la loro prova. La prova non doveva contenere nessun errore di nessun tipo e così finalmente potevano conquistare il rango, conquistare solo il primo rango di passaggio, quello provinciale. Per darvi un'idea, ricorda sempre Fernando Garcés su Storica, tra 10-12 mila candidati che si presentavano a ciascuna di queste verifiche provinciali venivano promossi soltanto 300 allievi. Agli esami di tipo imperiale, cioè come dire le selezioni nazionali, che si svolgevano alla capitale partecipavano circa 15.000 aspiranti, di rado ne passavano più di 200. Quindi nell'insieme c'era soltanto uno su 3.000 che riusciva a raggiungere l'obiettivo finale. Poi tutto questo però è stato abolito in via definitiva nel 1905. Attualmente il cursus per arrivare ad essere funzionari non è più assolutamente così, neppure in Cina. E allora, in questi giorni, cioè da pochi giorni, è scomparso anche Mario Monicelli. Lo sapete, lo avete letto sui giornali. Tra l'altro le modalità della sua uscita di scena sono state poi anche fonte di polemiche, peraltro, tra le forze politiche e sui giornali. Molti dei magazine scelgono di ricordare la figura del grande regista. Lo fa anche Gabriele Romagnoli su Vanity Fair. Lo fa con però due contributi un po' più inattesi. Da una parte appunto ricorda un tentativo di intervista che lui aveva fatto qualche anno fa proprio a Monicelli, tentativo di intervista poi naufragato, disse, passai qualche ora con lui, poi trascrissi 15 minuti di dialogo che Monicelli aveva avuto con il tassista, perché era molto meglio, era perfetto, era vero rispetto a tutte le domande che gli avevo fatto io. Lo rincontrai qualche tempo dopo insieme con la sua compagna Chiara. La compagna disse, Mario, hai visto che pezzo ha scritto questo signore su di te? No, che ha scritto? Si sarà inventato tutto? Dice, no, ti ha riconosciuto, c'erano le stupidate, ma la parola non è questa, che dici sempre tu. Ah, dice, se dicevo queste stupidate, allora ero io. Questo il tratto di Monicelli, un po' tipico, che ritorna anche in alcuni aforismi, in alcune piccole frasi, una collezione di una pagina che presenta sempre Vanity Fair. Dice, ad esempio, gli amici miei, se sono amici, è perché sono come me, quindi non amano scendere sul piano personale. Questo diceva Monicelli, le confidenze in fondo sono da femmine. Due pensieri sulle badanti, gli immigrati, l'integrazione. Si chiedeva, ad esempio, in un'intervista a Repubblica del 2002, ma dove vanno, come parlano, cosa pensano le badanti quando escono dalle nostre case? E in un altro pensiero sulla stampa del 2003, sugli immigrati, arrivano in Italia, lavorano tutto il giorno, cercano di inserirsi, ma poi di sera spariscono, si appartano come fossero ricercati. Non li conosceremo mai a fondo così. Questo un tratto particolare della figura di Monicelli. Un altro, ed è emerso in questi giorni, in qualche modo il suo cinismo, un cinismo positivo che poi dava origine all'ironia o magari al sarcasmo, e diceva appunto lui di questo suo tratto, la cattiveria è necessaria perché è come un bisturi, va molto a fondo e per andare molto a fondo bisogna essere cattivi. Questo diceva appunto Monicelli. Tutta la raccolta completa delle sue frasi la trovate su Vanity Fair. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo che Magazine 24 non solo ritorna sabato e domenica prossimi, ma se volete potete anche ascoltarlo, riascoltarlo sul nostro sito www.radio24.it. Grazie come sempre ad Anita Panizza con me a preparare questo programma, grazie a Paolo Corleoni questa mattina in regia. Magazine 24 ritorna sabato prossimo.